Ciao a tutti, cari ascoltatori di Radio Big World, e benvenuti in questa nuova puntata dei Monologhi Esteriori. Io sono sempre Elisa Elena Carollo, la vostra aspirante attrice di fiducia, e anche oggi vi porterò con me in un'incursione nel mondo del teatro per farvelo scoprire un po' di più e per convincervi che non è una cosa per vecchi, anzi, c'entra molto di più di quello che credete con le vostre vite. È arrivato ormai novembre, quindi ci sono i cieli grigi, le foglie che cadono, la pioggia, il freddo, ci si può mettere il cappotto e la sciarpa. Ok, vi devo fare una confessione. Sono una brutta persona perché odio l'estate e invece amo l'autunno e l'inverno. So che molti smetteranno di ascoltare adesso, però vi prego, non odiatemi. Anche l'autunno ha i suoi lati positivi, soprattutto per una persona che come me odia il caldo. Ok, magari se non vi piace il freddo non è proprio il massimo, però ci sono comunque i colori autunnali delle foglie che cadono e che ricoprono i viali, oppure le tisane calde da gustare dentro casa per riscaldarsi e rilassarsi dopo una lunga giornata. Dai, qualche lato positivo c'è, riconoscetemelo. E dato che è appena iniziata la mia stagione preferita, l'autunno, ho deciso di parlarvene un po' anche in questo programma. Questa volta ho barato un pochettino perché non vi porto un vero e proprio monologo teatrale. Ho trovato una poesia che si adatta molto di più al mood di questo periodo e quindi ho pensato che potrei fare uno strappo alla regola e recitarvi quella. Tanto comunque la poesia non è così lontana dal teatro. Si tratta sempre di letteratura e può comunque essere recitata in modo da renderla un'esperienza scenica per chi ascolta. Quindi oggi vi presento la poesia Foglie morte di Giovanni Pascoli, che è uno dei miei poeti preferiti e del suo lavoro adoro soprattutto l'uso delle onomatopee e la scelta fonetica delle parole, che secondo me attraverso il suono riesce proprio a dare l'impressione di quello che sta descrivendo, anche sonoramente. La poesia è un pochino diversa dal teatro e dal mio punto di vista è un po' più difficile da recitare perché, avendo una metrica, è difficile non cadere nella cantilena. Sapete, quella di quando ci facevano ripetere le poesie imparate a memoria a scuola. Ecco, non è tanto carino sentire le poesie cantilenanti, è più bello sentirle interpretate. Io non ho una vera preparazione in questo senso, però ci ho provato e spero che apprezzerete questa mia breve interpretazione di Foglie morte di Pascoli. Oh, che già il vento volta e porta via le piogge. Dentro la quercia folta ruma le foglie rogge che si staccano e fru partono. Un branco ad ogni soffio che l'avviluppi. Par che la quercia sogni ora, gemendo, i gruppi del novembre che fu. Volano come uccelli. Morte, nel bel sereno, picchiano nei ramelli del roseo pesco, pieno dei suoi cuccoli già. E il roseo pesco oscilla, pieno di morte foglie, quale s'appende e prilla, quale da lui si toglie, con un sibilo, e va. Ma quelle foglie morte che il vento, come roccia spazza, non già di morte, parlano ai fiori in boccia, ma sussurrano, orsù. dentro ogni cocco, all'uscio, vedo dei gialli ugnoli. Tu che costi nel guscio, di più covarti duoli, di che ti periti più? Fuori le alucce pure, tu che costi sei vivo. Il vento ruglia, eppure esto non è cattivo. Ruglia, brontola, ma contende a noi che tutto vuol che sia mondo l'orto per i nuovi fiori, e il brutto, il secco, il vecchio e il morto vuol che netti di qua. Noi ci indugiammo dove nascemmo un po', ma era per ricoprir le nuove gemme di primavera. Così dicono, e fru, partono, ad un rabbuffo più stridulo e più forte. E tra un voletto e un tuffo vanno le foglie morte e non tornano più. Spero che da questa mia lettura abbiate capito un po' che cosa intendevo come resa teatrale della poesia. Non è semplicemente un leggere e affidarsi alla metrica, ma anche un metterci dentro le emozioni che il poeta voleva trasmettere. Ma oggi non vorrei concentrarmi tanto sulla lettura della poesia, quanto sul freddo. Che cosa si può dire teatralmente parlando del freddo? Beh, è una sensazione che abbiamo e che proviamo nelle nostre vite e che a volte gli attori devono ricreare per delle scene. Ad esempio, quando c'è una scena ambientata in inverno, fuori, magari con la neve, e l'attore deve interpretare un personaggio che ha freddo, sta morendo di freddo. Però nel teatro non è freddo, non si possono far congelare gli spettatori soltanto perché l'attore non debba fare lo sforzo di immaginarsi e immedesimarsi in questo freddo. Al cinema a volte, quando c'è una scena girata in un ambiente freddo, c'è l'ambientazione giusta e quindi non bisogna ricreare nelle proprie sensazioni questo freddo. Però a teatro non è possibile. Nel doppiaggio ancora meno, perché si è in una sala di registrazione. Mi è capitato durante il corso che ho fatto all'inizio di quest'anno di dover doppiare una scena tratta da The Day After Tomorrow. Avete presente quel film catastrofico in cui c'è una glaciazione? Ecco, lì non era freddo nella sala di registrazione, però bisognava interpretare un personaggio che stava morendo di freddo. Come si fa in questo caso? Se la temperatura esterna è normale, ma noi dobbiamo avere freddo perché il personaggio ha freddo. Non si fa finta, no. Non funziona così in teatro. Se uno finge di avere i brividi e fa i gesti consueti che si fanno di solito per scaldarsi, si vede che fa finta. Non è vera recitazione. Se si vuole veramente recitare un personaggio che ha freddo, bisogna richiamarsi a un concetto che è la memoria sensoriale e che viene molto spesso in aiuto degli attori per ricreare le scene, magari un ambiente che non c'è realmente intorno a loro sul palcoscenico. Pensate ai vostri ricordi. Saranno per lo più visivi, perché la vista è il senso che noi utilizziamo di più tra i cinque di cui siamo dotati. Però non solo. Se vi ricordate una canzone che avete sentito molto tempo fa e che vi ricorda un momento particolare, quella è memoria uditiva, perché il vostro udito ricorda un suono che avete sentito nel passato ed è capace di ricrearlo nella vostra mente, anche se non lo state ascoltando in questo momento. Lo stesso per un profumo, oppure un odore sgradevole, Oppure il sapore di un piatto che vi piace particolarmente, magari un dolce che vi cucinava sempre vostra madre. Siete in grado di ricordarvelo, anche se non state gustando quel cibo in questo preciso momento. E come riusciamo con gli altri quattro sensi a richiamare queste sensazioni, anche se non le stiamo fisicamente vivendo, lo possiamo fare anche con il tatto. Per me è un po' difficile e forse anche per voi, perché il tatto non è uno dei sensi che esercitiamo di più. Però se ci impegniamo possiamo ricordare la sensazione che abbiamo provato quando, ad esempio, toccavamo qualcosa di bagnato, qualcosa di freddo, oppure al contrario qualcosa di caldo, talmente caldo che ci scottava. Oppure la sensazione morbida del pelo di un cucciolo che abbiamo accarezzato. Ecco, è esattamente questo che deve fare un attore quando deve immedesimarsi in un personaggio che prova freddo. Deve spingere il suo corpo a ricordare come ci si sente quando si ha molto freddo. Deve far ricordare alle sue mani come ci si sente ad essere gelate, e il suo naso ad essere tutto rosso e ghiacciato, a sentire il vento pungente sulle guance. Tutte queste sensazioni. E questo è molto più efficace che far finta e semplicemente mimare il gesto di avere i brividi di freddo, perché l'attore non sta veramente sentendo il freddo, quindi lo spettatore poi vede che sta facendo finta e non veramente vivendo quella sensazione. Il concetto di memoria sensoriale non è tra i più semplici da spiegare, ma spero di avervi fatto degli esempi comprensibili e di avervi portato un po' più a fondo in questo viaggio su ciò che accade nella mente di un attore quando recita. Forse questa cosa non ve l'aspettavate e avete imparato qualcosa di nuovo. Spero comunque che vi sia interessato e che vogliate seguirmi anche la settimana prossima, sempre qui su Radio Big World.